passa, passerà l'inverno. E allora, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15:10 di questo mercoledì 7 di marzo. E allora, buon marzo, si comincia a sentire l'aria della primavera in giro, siamo in fondo al 7 marzo. E però, appunto, primavera che deve esprimersi immediatamente il vento della primavera dà il senso della libertà. Bene, proprio di questo parliamo in questa trasmissione, che è trasmissione contro ogni carcere, quindi per la libertà. La libertà vera è quella che cerca di abolire, sopprimere, eliminare tutte le carceri, gli OPG, CIE, tutte le strutture che negano la libertà. Dunque, e difatti, proprio per iniziare bene questa primavera, non è ancora primavera meteorologica, però lo è nei fatti, sabato mattina ci sarà un appuntamento sotto il carcere di Velletri. Perché sotto il carcere di Velletri? Perché sotto il carcere di Velletri, intanto perché il carcere di Velletri è un carcere come tutti gli altri, è un carcere fuori mano, nel quale ci si va raramente, però appunto è un carcere dove vi è stato portato uno dei compagni arrestati durante la manifestazione del 15 ottobre dello scorso anno. E allora si va lì per dare solidarietà al compagno che sta rinchiuso in quel carcere, però poi in realtà l'inno di libertà è per coloro che sono chiusi in tutte le carceri, in quel carcere dove andremo, il carcere di Velletri, ma a simboleggiare la libertà per tutti coloro che sono rinchiusi sotto le carceri. Questa presenza sotto il carcere, questo sit-in sotto il carcere, appunto vuole iniziare un po' il tentativo di cercare di iniziare una stagione in cui la presenza di tutti coloro che odiano il carcere, che non riconoscono le strutture segregative, che non riconoscono la punizione, la pena, l'espiazione, insomma che vogliono liberarsi dal carcere, quindi dalla repressione, dovrebbero, appunto, vorremmo cominciare a far sì che la presenza sotto le carceri sia più frequente che non nel passato, per una serie di motivi. Per un motivo ideale, perché il carcere non ci sta proprio bene da nessun punto di vista, riteniamo che sia una struttura veramente tra le più feroci e orripilanti che esistono in questa società, perché appunto priva della libertà, che è il bene massimo che ha un essere umano, e quindi vanno abolite. E poi perché, questo per un fatto ideale, ma per un fatto anche abbastanza contingente, cioè legato alla situazione in cui ci troviamo. Abbiamo visto in questi ultimi anni abbastanza venire avanti in maniera galoppante l'uso del carcere da parte dei poteri dello Stato, dei governi, della repressione in generale. Lo abbiamo visto che anche manifestazioni pacifiche, ultra pacifiche, come sono quelle per quelli del movimento della Val di Susa contro il TAV, hanno avuto anche loro a che fare con la repressione e hanno dovuto subire degli arresti. Pensate un po', hanno dovuto inventarsi meccanismi per arrestare perfino persone ultra pacifiche. E questo qui vale per chi fa lotta e fa delle manifestazioni collettive per abolire delle, in quel caso contro il treno ad alta velocità che devasta un intero territorio, in altri casi per l'occupazione di case o per qualunque altro obiettivo, ma ovviamente il carcere opera anche nei confronti di quelli che individualmente cercano, che so, per esempio di in qualche modo reperire un reddito che per altri versi gli è negato, aggredendo la proprietà privata, quindi facendo i cosiddetti reati contro il patrimonio. I numeri del carcere stanno a dimostrare che c'è un incremento abbastanza forte dell'incarcerazione, cioè dell'uso del carcere come strumento deterrente per riportare tutte quelle fasce di popolazione che a vario titolo cercano di infrangere la legge, perché all'interno della legge stanno troppo stretti, cioè non riescono più a vivere, a manifestare le proprie esigenze minime di vita. Per riportarli all'ordine si usa sempre di più il carcere. Abbiamo visto, lo dicono tutti i giornali, lo dicono in continuazione, lo dicono i dati ufficiali, il numero delle presenze in carcere in questi ultimi anni è aumentato, addirittura negli ultimi 15 anni è raddoppiato. si è arrivati quasi alla soglia dei 70.000 in questi ultimi, questi ultimi mesi, e, mentre invece negli anni, alla fine degli anni 90, quindi a metà degli anni 90, 95-96, era 35.000, quindi per esattamente il doppio. Non è una, come abbiamo detto più volte, non è un fenomeno soltanto italiano, un po' ovunque nei paesi si sta incrementando l'uso del carcere come funzione detentiva. E allora questo appunto mette insieme la lotta contro il carcere, mette insieme due dati, uno di carattere ideale ed uno di carattere contingente. Bisogna tagliare le unghie di questo mostro che aumenta la sua aggressività, il carcere, ed è un fatto abbastanza strano anche da un terzo punto di vista, se vogliamo, se volete, storico. Quindi questo se ci fossero degli storici in questo paese, ma francamente credo che a livello accademico siamo messi molto male. Se ci fossero delle persone che ragionano, anche giornalisti seri, di quelli che c'erano per esempio all'inizio del Novecento, che facevano delle inchieste, beh, ci sarebbe da vedere come le analisi, le teorie, gli scritti di persone intelligenti, ma una trentina di anni fa, secondo i vari paesi 40 o 30 anni fa, addirittura avevano detto, affermavano che il carcere era una, essendo una struttura molto vecchia, perché viene appunto dai periodi bui della storia dell'umanità, la segregazione è molto vecchia, comunque il carcere inizia nel 600, quindi c'ha 400 anni, è un po' vecchiotta, e come struttura andava superata, e difatti negli anni 60 e 70 alcuni paesi, soprattutto in Nord Europa, misero in piedi dei percorsi per, dicevano così, decarcerizzare la società, non completamente abolire, però un percorso che vedeva sempre via via la diminuzione delle presenze in carcere, e fino ad arrivare a una loro abolizione. Si è arrivata a un punto in cui per esempio paesi come la Norvegia aveva qualche centinaia soltanto di carcerati, l'Olanda uguale, la Svezia, ma anche in Italia appunto siamo arrivati a un livello di 30.000 presenze, quindi uno dei più bassi della storia, meno della metà di quanti sono oggi, e così tutti i paesi più o meno. Perché si diceva questa cosa? Perché appunto si notava che era un sistema vecchio che abbrutiva non solo chi viene buttato in carcere, ma l'insieme della società, poi, perché ripercuote, la gente entra ma anche esce. Quando si esce dal carcere lo analizzavano tutti coloro, sociologi, psicologi, tutti quelli che avevano un po' di sale in zucca, dicevano il carcere peggiora le persone che tu le fai transitare là dentro. Più è lungo il periodo di permanenza e più peggiora, perché non può migliorare le persone il carcere, lo dice pure la sigla, questa, e a me non mi sta migliorando. Come fa a migliorare un posto dove soffri in continuazione 24 ore al giorno? È ovvio che ne esci peggiore. E poi dicevano, in fondo la società come è cambiata, tutte le altre strutture della società, anche il carcere deve cambiare, quindi non più la punizione segregante che toglie la libertà, ma si trovassero, la società può trovare, che in qualche caso siano ingegnati di trovare altre forme di sanzione, sanzioni economiche, come avviene per esempio per i codici moderni. Per esempio il codice stradale prevede delle sanzioni che sono economiche o amministrative, quasi non c'è il caso, se tu fai un divieto di sosta non è che ti arresta, ti mettono una multa, oppure per altre infrazioni più gravi al codice stradale c'è la sanzione amministrativa, la sospensione della patente e così via. Quindi si possono trovare altre forme di sanzioni, chiaramente sempre criticabili le sanzioni possono essere in un'idea di società diversa, però anche in questa società chiaramente il carcere sembrava un po' brutale. Bene, tutto questo invece è successo il contrario, quelli che dicevano beh, stiamo andando verso un superamento del carcere, c'era chi diceva ma cerchiamo di accelerare questo processo, quindi diciamo subito no al carcere, qualcuno diceva no, è meglio seguire un percorso riformatore, no, ma non di riformare il carcere, riformare la forma della attenzione, qui c'è un grosso imbroglio anche terminologico, no? Perché l'imbroglio sulle parole è decisivo in questa società nel quale imbroglio sono specialisti, giornalisti, che purtroppo sono gli esperti dell'imbroglio, brutte persone sono, e anche i professori universitari, storici, eccetera. E lì si diceva il concetto riformatore all'interno del sistema carcerario non diceva di riformare il carcere, non l'ha mai detto nessuno questo, perché le persone intelligenti lo dicono, i secondini e chi ha la mentalità del secondino. Il carcere non si può riformare, su questo non c'è discussione, chi lo dice è una persona che non conosce nulla di nulla. Si può riformare il concetto di espiazione, cioè quello sì, l'espiazione che appunto va riformata e non usando più il carcere deve proprio scomparire, come ho detto prima si potevano usare forme di sanzioni amministrative o sanzioni economiche, sanzioni di altro sociali, insomma di altro tipo di carattere, tranne che quelle appunto di privazione della libertà. Bene, quindi per questi tre motivi, ideale, storico e contingente, perché sempre più invece gli stati, i governi usano il carcere in maniera spaventosamente spaventosa, scusate il bisticcio ma rende bene l'idea, è chiaro che bisogna mettere un freno. Il modo migliore per mettere un freno è cercare di lottare contro il carcere, quindi non lasciare soli chiunque va in carcere, a qualunque titolo ci vada, non va lasciato solo, ovviamente partendo da quelli che ci vanno per un motivo, perché lottano per cambiare questa situazione. E quindi chiaramente bisogna stare sotto il carcere. Bene, detto questo, allora andiamo a leggere il volantino che indice questo appuntamento per sabato mattina sotto il carcere di Velletri, e poi vi spiegheremo pure perché, chi è che ha indetto questo, è nata questa rete chiamata Evasioni, che ha un interesse di appunto di lottare contro il carcere, e quindi vuole così in qualche modo esprimere questa sua esigenza. لعبروكم الصندات الفايدة وردوها لكم جنة نوعدوكم إن شاء الله راح يدخلوكم البيض والدقيق وبيض الطماطيش وبيض الزيت انت عسانكو لازم تنوض بكري يا ولدي تروح لقراية تجري يا ولدي باش تخرج النقاري يا ولدي وتفوت كامل شوية يا ريدي تولي عندك عقلية يا ريدي تولي تفهم الدنيا يا ريدي حبة تولي شخصية Allora, ecco, dopo lo stacco musicale, dicevamo la presenza, il sit-in, insomma, l'appuntamento sotto il carcere di Velletri è stato indetto da questo volantino che andiamo a leggere. Quanta rabbia abbiamo provato alla notizia delle condanne di Lorenzo e Giuseppe? Quanta altra sapendo che Giovanni deve ancora rimanere in carcere. Oggi come oggi, ribadire, gridare, far sentire concretamente che nessuno e nessuna è solo è indispensabile. Per sabato 10 marzo, quindi sabato prossimo, alcune compagne e compagni sono fatti promotori e promotrici di un presidio sotto il carcere di Velletri per portare un saluto a Giovanni, che appunto è rinchiuso nel carcere di Velletri, che in una delle sue lettere ci ha detto chiaramente: se venite nel piazzale davanti al carcere e vi mettete vicino ai due alberi, riesco anche a vedervi dalla finestra. Quindi è anche un saluto di persone che possiamo fare. Tocca fare un piccolo sforzo, che in fondo è una cazzata per chi lotta per le proprie libertà e quelle di tutti e tutte. Quindi sveglia un po' prima, un sabato deve svegliarsi un po' prima, ma nemmeno tanto presto, perché l'appuntamento è alle 9.30 a Roma Termini, da cui parte il treno. Per chi, quindi l'appuntamento è a Roma Termini, l'appuntamento è a Via Giolitti. Quindi lato guardando Via Giolitti è la strada che costeggia la stazione, guardando di faccia la pensilina si trova sulla destra e all'ingresso appunto della galleria principale. Quindi l'appuntamento è alle 9.30 per prendere il treno delle 10.07 che poi ferma a Campoleone, poi in coda al volantino daremo appuntamenti più precisi. Durante il presidio allestiremo un gazebo dove raccoglieremo libri, materiale, messaggi, lettere, riviste, disegni, poster, manifesti, magliette, tutto quello che è qualsiasi cosa che tu voglia far arrivare ai ragazzi che sono al momento privati della loro libertà, per far sentire vicinanza e solidarietà. Se ne colpiscono alcuni per mettere paura a tanti, è in tanti che bisogna rispondere. E quindi la parola d'ordine è perché nessuno e nessuno rimanga solo, solo o sola. Ci vediamo sotto il carcere di Velletri alle ore 11. Tutte libere e tutti liberi: Giovanni, Robert, Ilaria, Lorenzo, Giuseppe, nomi come altri di persone fra tante, nomi come altri tra tutti coloro che il 15 ottobre erano a Roma. Ci si riferisce alla manifestazione del 15 ottobre ed eravamo in tanti e tante. Persone tra tante che quel giorno hanno portato la loro rabbia nelle strade della città, giovani, ragazzi e ragazze ai quali lo Stato sta presentando il conto con sentenze cosiddette esemplari, che sono come monito rivolto a tutti coloro che osino alzare la testa e a tutte e tutti coloro che non si rassegnano a recitare un copione già scritto, a tutti coloro che esprimono conflittualità al di fuori delle regole imposte e del consentito. Se infatti il sistema impone delle regole per la sua stessa esistenza, chi è che continua a fare il gioco dei poteri forti? Chi è che divide buoni e cattivi? E chi continua ad accettare questa distinzione tra buoni e cattivi? Giovanni, Robert, Ilaria, Lorenzo, Giuseppe, ragazzi e ragazze che hanno avuto, come tutti e tutte le altre, gli altri, le loro buone ragioni per non restare a casa quel giorno. Ragioni da contrapporre a quelle di chi, in questo paese come in tutto il mondo, antepone gli interessi delle banche, dei padroni politici ed economici di ogni colore alle vite delle persone. Purtroppo al momento di pagare oggi sono soltanto loro. A Giovanni sono stati dati 3 anni e 4 mesi ed è ancora rinchiuso in carcere. 3 anni e 4 mesi in sentenza di primo grado sono tantissimi. 2 anni per Robert, Ilaria ancora agli arresti domiciliari in attesa della prossima udienza. E poi vi daremo gli appuntamenti anche per chi volesse andare ad assistere o comunque a solidarizzare nei giorni dei processi che ci stanno proprio in questi prossimi giorni. Il 22 febbraio un'altra batosta: 5 anni per Giuseppe, altri 4 per Lorenzo. I mostri sbattuti in prima pagina con la maschera confezionata su misura. Il TG5 vomita menzogne e millanta inesistenti video che ritraggono Lorenzo e Giuseppe mentre lanciano dei sassi. Dopo che il magistrato Anna Maria Fattori, accogliendo in tutto le richieste del PM, ha sputato la sua sentenza infame ed inequivocabile, non si punisce il fatto specifico, ma si punisce l'aver partecipato alla manifestazione del 15 ottobre. Questo è un punto centrale che, abbiamo detto, da più tempo si sta affermando, cioè non come per gli immigrati, no, io non ti punisco se tu fai qualcosa, contraddicendo anche 200 anni cosiddetto di diritto garantista, insomma, liberale, chiamatelo come volete, cioè quello vigente in questi paesi, dove si diceva, quando studiavamo il diritto a scuola, ricordate, oppure quando si è scritto dappertutto, una persona può essere punita solo per quello che lui o lei fa. non per quello che è. Invece in Italia c'è il reato di clandestinità che ti punisce non per quello che fai, ma per quello che sei. E così, se tu stai in una manifestazione, ti puniscono per quello che sei, su un manifestante, e non per quello che hai fatto. E infatti le prove in questo caso sono molto, diciamo, balzellone, insomma, che non esistono. Quindi, perché non per un fatto specifico, ma per aver partecipato ad una manifestazione con partecipi della rabbia che accomuna tutte e tutti, per una vita da sfruttati e per una crisi fatta pagare alle popolazioni di tutto il mondo, e per un presente che parla di esclusione dei bisogni e di sottomissione ai profitti del capitale e al mercato. È il solito stucchevole ritornello tra manifestanti buoni e quelli cattivi. Ma chi sono questi ragazzi? Chi è Giovanni? Chi è Robert? Chi è Ilaria? Chi è Giuseppe? Chi è Lorenzo? Sono ragazzi come tanti, sfruttati tra gli sfruttati, che vengono da un paese a volte del sud Italia o dell'est d'Europa, che abitano alle periferie di Roma o siano emigrati da un altro paese, che studiano o lavorano o si arrangiano come possono, come la gran parte di noi. Nomi diversi, vite diverse, ma stessa è la rabbia. Oltre a loro ci sono 14 denunciati, anch'essi nomi diversi, vite diverse, tutti però colpiti dalla stessa repressione. Tra loro non si conoscono, non si sono riconosciute in tutte le persone che erano in piazza San Giovanni quel giorno, troppe per conoscersi tutte tra di loro, ma abbastanza per stare fianco a fianco e per mettere paura a quelli a chi ci vorrebbe rassegnati e indifferenti. Affinché Giovanni, Robert, Ilaria, Giuseppe e Lorenzo non rimangano soltanto dei nomi, affinché nessuno si senta solo o sola, affinché la paura cambi di campo, la solidarietà è un'arma, la rabbia non si arresta. E dunque, per la libertà, per chiedere libertà per tutti e tutti, sabato 10 marzo portiamo un saluto a Giovanni e un pensiero a Robert, Laura, Giuseppe, Ilaria, Giuseppe e Lorenzo. Una giornata cosciente e militante di gesti concreti di vicinanza e di solidarietà. Questo presidio si fa appunto in un giorno in cui anche il movimento NoTav farà la stessa presenza nei confronti di tutti i militanti NoTav arrestati, gli attivisti NoTav arrestati in questa ultima ondata di arresti. Quindi è un giorno di presenza sotto le carceri, di lotta alla repressione, quindi sabato è una giornata che ha questo segno. Questo comunicato è firmato Evasioni, rete solidale sotto contro carcere, CIE e repressioni. Ecco, allora, che cos'è questa rete? Cosa è nata? Perché è nata questa rete repressione, così, che si chiama Evasione contro la repressione? In realtà, quando sempre si è trovati, e negli ultimi periodi sempre di più, a dover lottare contro gli arresti, in una manifestazione vedeva sempre arresti, sempre di più, man mano che passavano il periodo, appunto, ci si è visto che qualunque movimento si mette in piedi, dalle occupazioni delle case, movimento NoTav, movimento contro le discariche, eccetera, alla fine arriva la mazzata della repressione in termini di denunce, in qualche caso arresti, quindi bisogna avere a che fare con i processi. Quando avvengono questi fatti ci si mette insieme tutti, diciamo, gli amici, i compagni, i conoscenti di quelli arrestati o denunciati o colpiti dalla repressione, per solidarizzare. E allora si è detto: perché fare queste cose, stare sempre appresso, correre appresso alla repressione? È importante, visto che è un dato permanente il problema della repressione contro le lotte, ma anche contro i comportamenti dei proletari che non sono consoni ai diktat attuali, quindi a dover subire in silenzio. È chiaro che conviene mettere in piedi una struttura permanente che abbia come obiettivo l'abbattimento del carcere, il superamento del carcere, l'abolizione del carcere, cioè, per ovviamente, un obiettivo di lunga durata è combattere contro il carcere perché questo venga abolito. Nell'immediato, fornire assistenza, da quella diciamo di un avvocato, di un legale, a quella di un pacco di viveri, a quella di mandare un maglione, un libro, una lettera, e insomma una presenza sotto il carcere, tutto quello che serve per alleviare coloro che vengono colpiti dalla repressione, e ovviamente aumentare il bacino, la presenza delle persone che sempre più vogliono combattere il carcere e superarlo, abolirlo, mandarlo via. Quindi si è formata questa rete Evasioni, si chiama Evasione perché proprio appunto dà l'idea di chi non vuole stare in carcere, chi evade è appunto uno che cerca di andare via dal carcere, non solo evade dal carcere, non solo che riesce a scappare, in realtà l'evasione è anche una la cultura principale di coloro che in carcere ci stanno, perché ci vengono portati, ci stanno di malavoglia, ci stanno contro la loro volontà, non accettano il carcere e pensano sempre a come cercare di prendere il volo, cioè andare via. La presenza in carcere, i carcerati che stanno in carcere con la ferma volontà di voler comunque costruire evasioni, liberazioni, andate, fughe, andate via, ci stanno con la schiena dritta, con il viso alto. Coloro che invece lo accettano stanno con la schiena curva e sono quelli che poi vengono soppressi, perché il carcere uccide, no? I dati, avete visto i dati dello scorso anno, 66 suicidi e un insieme di 186 morti, quindi è un massacro. Il carcere uccide, trucida, poi 5.600 atti di autolesionismo, cioè il carcere è una macchina trita corpi e anche menti, 22.000 persone che dichiarati con problemi mentali, 22.000, un terzo, uno su tre, su 67.000, 22.000 sono dichiarati persone con problemi mentali, che ovviamente quando sono entrati erano sanissimi di corpo e di mente, sono stati massacrati dal carcere. Che vuol dire questo? Vuol dire che il carcere produce non solo disfacimento del corpo, ma anche della psiche, quindi è un mostro che va chiaramente abolito. Ecco, l'evasione è il modo per anche per chi va in carcere per starci senza accettare il carcere, pensando a come fare per andare via insieme a tutti, a organizzarsi per lottare contro il carcere e per lottare per andare via. In termini, vi do anche l'indirizzo di questo. Intanto coloro che ci ascoltano dal carcere, visto che appunto si è prodotto questa struttura che un po' attraversa tutto il movimento qui a Roma e poi vorrà collegarsi anche con altre situazioni fuori Roma, chi dal carcere vuole scrivere intanto può usare questo indirizzo, perché chiaramente non è che ha una sede e quindi da dentro non si possono usare contatti attraverso internet. Può inviare a Radio Onda Rossa, usare la conta come trasmissione contro il carcere, e quindi si può anche dialogare, chiedere, parlare, perché appunto questa struttura Rete Evasioni non si occupa soltanto, non esclusivamente di coloro che vengono arrestati durante le manifestazioni, durante le lotte, ma anche di tutti coloro che appunto contro la loro volontà vengono gettati in carcere, quindi tutti i detenuti e le detenute. Quindi potete indirizzare Radio Onda Rossa, la conta, Evasioni, come volete, se qui a Via De Volci 56 quello che scrivete voi arriverà. Per coloro che invece stanno a casa e possono utilizzare internet, aspettate che non me lo ricordo a mente, perché gli indirizzi di posta elettronica non si ricordano mai a mente, talmente se bisogna averne in mente che quindi si dimenticano. Comunque è semplicissimo, però io lo scriverei, altrimenti comunque è www.inventati.org/rete-basso, quello basso, evasioni, quindi www.inventati.org/, cioè la barra diagonale, / rete trattino basso evasioni, e qui è ovviamente un sito in costruzione, però intanto se volete scrivere, ovviamente da fuori, se avete accesso in internet da fuori del carcere, potete mandare suggerimenti, testimonianze. Poi raccoglieremo tutto il materiale che viene da dentro il carcere, che viene le lettere, le trascriveremo tutte, cioè i contributi, le analisi, i ragionamenti sul carcere, oltre le notizie chiaramente, e quindi sarà un sito, è appena lavoro in corso, appena in costruzione, ma speriamo di metterci tutto questo materiale, quindi gli diamo anche il contributo. Chi sta dentro attraverso la lettera scritta, quindi la inviate qui a Radio Onda Rossa, che possono essere notizie, analisi da dentro, testimonianze, tutto quello che volete scrivere sarà messo su questo sito. e anche ovviamente per fuori, però fuori potete usare anche l'indirizzo di posta elettronica del sito. Scrivete al sito e il sito ci arriva attraverso il sito. Bene, questo è l'appuntamento e due parole appunto su questa rete, cioè, soprattutto quello che è importante sono i contributi, perché questa rete è informazione, quindi si vuol muovere appunto con questi due obiettivi, un obiettivo immediato: offrire solidarietà, sostegno a coloro che stanno in carcere e attraverso tutte le forme, appunto dall'inviare libri, lettere, corrispondenze, pacchi, quello che serve, fino all'obiettivo un po' più di lungo periodo, perché ma anche di più ampio respiro, cioè l'abolizione del carcere, di ogni galera, di ogni sistema che reclude, che toglie la libertà. E quindi è importante anche offrire idee, cioè come pensiate, come si pensa ciascuna pensa di mettere in piedi questo aggregato di persone che vorrei lottare contro il carcere. Quindi però intanto l'appuntamento, vi dovevo dire l'appuntamento, abbiamo detto alle 9:30 a Roma Termini, ossia all'inizio di Via Giolitti, praticamente a Via Giolitti di fronte alla Galleria Centrale di Roma Termini. Quello è l'appuntamento alle 9:30 per prendere il treno che parte alle 10:07 e poi ferma a Campoleone, perché il carcere Velletri è più vicino alla fermata di Campoleone. Dunque, per chi invece dovesse saltare quell'appuntamento, può raggiungere direttamente, se vuole raggiungere con i mezzi propri, la stazione di Campoleone. Ci si vede lì intorno alle 10:30-10:40 e poi si va tutti insieme al carcere. Per chi dovesse saltare anche questo secondo appuntamento, ci si può trovare direttamente sotto il carcere di Velletri. Il carcere di Velletri si trova al chilometro 8,6, quindi chilometro 8,6 della strada provinciale Campoleone Cisterna. È abbastanza facile trovarla, perché da Campoleone va fino appunto alla cittadina di Cisterna al chilometro 8,6. Quindi tre appuntamenti: alle 9:30 a Roma Termini, Via Giolitti, cioè lato Via Giolitti, di fronte alla Galleria Centrale, quindi all'inizio, per prendere il treno delle 10:07. Oppure, se si salta questo appuntamento, alla stazione di Campoleone, stazione dell'FS ovviamente, alle 10:30-10:40, oppure addirittura sotto il carcere di Velletri. Lì si vede questo gruppo di persone che arriverà un po' più tardi, dalle 11 in poi. Il carcere Velletri si trova sulla strada provinciale Campoleone Cisterna al chilometro 8,6. Theory. Adesso ti ho messo là. Yeah. Dicevamo, le ultime appuntamenti sono appunto sotto ai processi che vedono questi compagni di cui abbiamo parlato. Allora, domani c'è uno di questi ragazzi, Robert, un ragazzo nato in Italia, vissuto sempre in Italia, però è di genitori rumeni, e quindi la richiesta da parte del pubblico ministero di espulsione. Ora, espellere una persona che è nata in questo paese è veramente abbastanza grottesco, e tuttavia c'è questo processo. Lui ha avuto già il processo penale, questo però è la parte amministrativa. Il penale, il giudice penale ha rifiutato il discorso dell'espulsione, anche perché appunto non era ravvisabile. Una persona che è nata in Italia non è espellibile. Però sui meccanismi anti-immigrazione, cioè le leggi anti-immigrazione, più che altro oltre le leggi, anche alcune sentenze anti-immigrazione fatte in questo periodo anche a livello europeo stabiliscono un concetto orribile, che è quello della pericolosità sociale. Nel caso una persona gli viene attribuita la pericolosità sociale, come le persone che rimangono nei manicomi criminali, no? Sempre quella categoria, è il marchio della peste moderna, no? Gli appestati, una volta si metteva un segno sugli appestati, no? L'abbiamo letto nei romanzi della peste del 600, veniva messo un segno agli appestati perché venissero evitati dalle altre persone, no? Per evitare il contagio. Ovviamente pensando che poi i momenti di contagio erano altri, erano la mancanza di igiene, le condizioni igieniche spaventose, vabbè, a parte questo. E appunto oggi è ritornata questa marchio, si chiama pericolosità sociale, in base a questa parola, questa categoria stupida che non vuol dire niente, perché poi che vuol dire? Probabilmente è più pericoloso sociale, che so, una banca che toglie i finanziamenti a una... fa chiudere un posto di lavoro e manda 500 persone improvvisamente nell'astrico, oppure pericolosità sociale può essere il tunnel della Val di Susa, perché è pericoloso socialmente. Quindi è una categoria abbastanza cretina, demente, che solo dei cialtroni, quali quelli che attualmente guidano così questi paesi, che sono veramente anche da un punto di vista proprio di levatura mentale, sono delle persone di una ignoranza e spaventosa grettezza morale, mentale e culturale che abietta. Infatti hanno inventato questa pericolosità sociale per tenere le persone chiuse nei manicomi criminali. Quei lager di tortura, veri e propri Auschwitz moderni, sono fatti in base alla pericolosità sociale. Le persone che entrano dentro perché hanno reagito, che so, a un arresto, dichiarati quindi infermi di mente e con pericolosità sociale, passano la vita, gli ergastoli bianchi si chiamano, ne parleremo tra un po', degli OPG. E con questo criterio si vuole anche espellere le persone, anche se stanno da più di 10 anni in un paese, quindi che ormai che si espellono dove? In un posto che non è più il loro, che non è mai stato il loro. Vabbè, insomma, quindi domani l'appuntamento faranno questo processo amministrativo per l'espulsione di Robert al tribunale civile, però civile amministrativo, quello si trova via Giulio Cesare, non a Piazzale Clodio. Mentre invece mercoledì prossimo, mercoledì 14, l'appuntamento è di nuovo a Piazzale Clodio, perché ci saranno i processi contro Ilaria e altri compagni, e quindi l'appuntamento per mercoledì prossimo la mattina intorno alle 10:30-11 a Piazzale Clodio. We'll be right back. Allora, di nuovo in diretta, questa è la trasmissione contro il carcere, sono le 15.51, 3.51 del pomeriggio. Dunque, passando a un altro argomento, come ripetiamo più volte, e non è modo di dire, che la lotta contro il carcere non conosce frontiere, perché il carcere è ovunque, ogni paese, sembra un'assurdità, ogni paese, ogni Stato, ogni paese in cui è organizzato da uno Stato, i paesi sono, modo di dire, insomma, per paesi, paesi una volta si intendeva un raduno, un aggregato di persone che si conoscevano tra di loro, oggi invece per paese si intende una nazione, cioè un aggregato di persone che non si conoscono tra di loro, che non si capisce che abbiano in comune niente, in comune hanno soltanto un capo, un gruppo di comandanti, che sono appunto lo Stato, i governi e così via. Vabbè, quindi la lotta contro il carcere non conosce frontiere, quindi come sapete noi spesso, cioè spesso siamo facciamo questa lotta contro il carcere, questa trasmissione, insieme a tutti coloro che appunto vogliono comunicare con noi e che con dei compagni che in America, negli Stati Uniti, lottano contro il carcere e che ci hanno mandato quest'ultima indicazione. Dunque, nelle carceri americane dall'autunno scorso sono in corso alcune lotte importanti, prevalentemente fatti con sciopero della fame. Sciopero della fame è che è, diciamo, la base di queste, e però anche altre iniziative. Lo sciopero di Pelican Bay, che è un carcere molto grosso e molto, ne abbiamo parlato le altre trasmissioni, è in corso da parecchi tempi. Pelican Bay è in California, che è lo stato degli Stati Uniti più pieno di carceri, ce ne stanno tantissime. Negli Stati Uniti stanno oltre 2 milioni e mezzo di persone in carcere, 5 milioni e mezzo privati della propria libertà a vario titolo, ma di queste 2 milioni e mezzo in carcere, altri 2 milioni stanno in misure, diciamo, misure alternative, però sempre in limitazione della libertà, quindi un numero spaventoso. Come vedete, anche in America il numero non è raddoppiato negli ultimi 15 anni, è decuplicato quasi, insomma. E vabbè, e quindi oltre Pelican Bay, il carcere in California, adesso c'è una lotta nel carcere di Corcoran. Considerate che sia quello di Pelican Bay sia quello di Corcoran, soprattutto quest'ultimo, è prevalentemente frequentato, si fa per dire, da persone che sono, in questo caso sono latinos, come nel carcere di Pelican Bay molte persone sono afroamericane, cioè che come sempre, no? Il carcere incarcera la povertà, l'emarginazione, le persone più sfruttate e poco e più povere, insomma. C'è un famoso libro che dice si incarcera la povertà. Carcere di Corcoran, molti sono proprio diciamo latinos, cioè portoricani, latinoamericani. È in corso un grosso sciopero della fame. Purtroppo questo sciopero della fame nel carcere di Corcoran ha già visto una vittima, un ragazzo di 27 anni, Christian Gomez, con a caso il cognome dice tutto, è morto e non si sa ancora per cosa sia morto, se a causa dello sciopero della fame prolungato o per altri motivi. È in corso un'inchiesta, però non si sa ancora niente. Lo sciopero del carcere di Corcoran è cominciato alla fine del dicembre 2011, quindi sono oltre 2 mesi e mezzo che si svolge, e riguarda e propongono quali sono le rivendicazioni di questa ondata di lotte nelle carceri americane, quella contro l'isolamento prevalentemente. In America, come in tutti i paesi del mondo, si usa l'isolamento come forma punitiva. C'è l'isolamento che vengono utilizzate in maniera punitiva e non giudiziale, insomma, per qualunque cosa. Qualunque, diciamo, defezione fai alla normativa, alla disciplina del carcere, vieni buttato in cella isolamento. Le celle isolamento, che dovrebbero essere vietate perché lo dice l'ONU, l'Amnesty International, perché l'isolamento è ritenuto una vera e propria tortura, tuttavia tutti i paesi, tutti gli stati usano l'isolamento come forma punitiva. Però grazie alle pressioni internazionali, alle lotte soprattutto dei detenuti e di altri settori della società, in tutti i paesi c'è un regolamento che come dire, che limita l'uso dell'isolamento. Per esempio, non si può andare oltre un certo numero di giorni. In ogni paese il regolamento è diverso, ma in genere il numero di giorni in cui una persona detenuta può essere costretta in isolamento è molto ridotto. Pochi giorni, non superano i 10 giorni quasi mai, perché tenere una persona oltre 10, in qualche caso massimo 15 giorni, tenere una persona in isolamento per una quantità di giorni maggiore dei 15, insomma, si rischiano dei problemi, di procurare dei gravi problemi anche irreversibili a questa persona. Bene, poiché invece le direzioni del carcere, le guardie, usano l'isolamento in maniera molto più agile, diciamo, molto più allegra e in maniera molto prolungata, chiaramente questa volta la lotta nelle carceri americane è contro l'uso indiscriminato e diffuso dell'isolamento. Chiedono praticamente che, appunto, venga abolito l'isolamento. È una battaglia, come dire, rivendicativa parziale, però... Considerate che chi ha conosciuto il carcere, insomma, anche le lotte parziali sono estremamente importanti, decisamente importanti, perché poi attraverso le lotte parziali che si sviluppa la lotta contro il carcere. Non si parte d'amblè, non è un fatto ideale, a parte che sono i signorini che si vedono nei cocktail la sera, parlano a vanvera, a volte possono dire pure siamo contro il carcere, tanto loro sanno che il carcere non lo conosceranno mai. La lotta contro il carcere concreta, materiale, di chi lo frequenta e purtroppo lo frequenterà, insomma, sa che deve intanto togliere gli aspetti più duri, più feroci, le torture vere e proprie. L'isolamento è uno di questi, quindi è una lotta importante, la lotta contro l'isolamento. Chiedono l'abolizione delle celle di isolamento proprio, e quindi l'abolizione dell'uso dell'isolamento. Questo era l'obiettivo centrale, poi ce ne sono tanti altri, però questo è l'obiettivo centrale, è un grosso obiettivo, intanto perché contrasta anche qui con l'uso eccessivo in forma repressiva, perché c'è una repressione verso chi sta fuori portandolo in carcere, poi c'è pure una seconda repressione per chi sta dentro e non si attiene alla disciplina, non accetta passivamente la disciplina del carcere. Sì, usa la ulteriore punizione, che è l'isolamento, quindi punizione sulla punizione. Ebbene, e niente, questa cosa è in corso, quindi noi esprimiamo dall'altra parte dell'oceano grossa solidarietà allo sciopero della fame in corso a Pelican Bay e a Corcoran, questi due carceri statunitensi. Soprattutto chiediamo giustizia, ma non quella dello Stato, nella commissione d'inchiesta per Christian Gomez, questo ragazzo ucciso dal carcere a 27 anni. E se volete collegarvi, ovviamente c'è un sito che tratta di queste lotte, si chiama proprio Solidarity, nelle carceri statunitensi, potete trovarlo, vi do l'indicazione, http://, poi prisoner, dico come è scritto altrimenti non ci si capisce niente, gli indirizzi email vanno letti esattamente come sono scritti, secondo come il classico modo dello spelling, non si può pronunciare in inglese, altrimenti non vuol dire che non si conosce, non si conosce niente, va detto esattamente come è scritto, senza pensare di sfoggiare pronunce che non stanno fuori luogo. Allora, prisoner, tutto attaccato, è prisoner Unger Strike Solidarity, quindi è tutto attaccato, che vuol dire appunto solidarietà con lo sciopero della fame dei prigionieri, scritto alla rovescia, prisoner, poi Unger con l'H davanti, che vuol dire fame, strike, cioè sciopero, solidarity, tutto attaccato, solidarity con la Y finale, .wordpress.com. Questo è un sito in cui tutti coloro che vogliono solidarizzano con la lotta nelle carceri americane mettono così a... indicano tutto quello che qual è lo stato della lotta, qual è il livello di solidarietà, le manifestazioni, le fotografie, ci stanno molte cose, ovviamente in inglese, però si capisce bene perché lo scritto è poco e le indicazioni sono tante. Bene, con questo purtroppo il tempo è finito, quindi parleremo degli OPG la prossima volta. Ne abbiamo già parlato, ma siccome bisogna parlarne, perché il problema del controllo psichiatrico è un problema decisivo altrettanto quanto il carcere, quindi ed è un problema attualmente in ballo in questo paese, quindi bisogna anche di questo informarsi e poi lottarci contro. L'appuntamento che vi diamo è per mercoledì prossimo per questa trasmissione, però l'appuntamento intermedio chiaramente è sabato mattina alle 9:30 a Roma Termini. lato via Giolitti, per andare sotto il carcere di Velletri, a dare solidarietà a tutti i detenuti e le detenute, e in particolare a Giovanni che si trova recluso, uno di noi che si trova recluso a Velletri. Noi salutiamo tutti e tutti e auguriamo buona libertà. Ci vediamo, ci sentiamo mercoledì prossimo. Di qui sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò.